Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. 300 miliardi per il Recovery Fund, la Commissione europea lancia la sua proposta in vista del Consiglio europeo di oggi alle 15. È in gioco il futuro dell'Europa, avverte intanto Angela Merkel, pronti a contributi più alti, ma dice per il debito comune serve la riforma dei trattati. Fase 2, quasi 3 milioni di persone che tornano al lavoro, sia i negozi, poi riapriranno bar e ristoranti, cittadini liberi di muoversi, ma entro le regioni. All'Italia il ministro Patuanelli annuncia via la nuova società, a giugno sarà pubblica e avrà oltre 90 aerei. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, giornata che si annuncia con diversi appuntamenti politici, dalla riunione del Consiglio dei Ministri oggi che dovrebbe approvare il DEF con tutti i numeri dello scostamento dal bilancio e quindi con una previsione del debito sul PIL di oltre il 150%. Poi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi parteciperà anche all'importante Consiglio europeo annunciato per le 15 di questo pomeriggio, dove si attende una decisione sul fondo per la ripresa. La Commissione europea questa mattina ha parlato di una proposta da 300 miliardi di euro. Partiamo da qua. Aggiungere al prossimo bilancio europeo pluriennale un fondo temporaneo e mirato per la ripresa, dotato di 300 miliardi di euro da raccogliere sul mercato attraverso emissioni di obbligazioni europee. È una delle principali proposte della Commissione, che sarà presentata al vertice europeo in programma questo pomeriggio. Per la Germania riconoscersi nell'Unione è parte della nostra ragione di Stato. Un messaggio molto chiaro quello che Angela Merkel ha rivolto questa mattina al Bundestag. L'Europa non è l'Europa se non si è pronti a sostenersi gli uni con gli altri, ha affermato la cancelliera. In questa crisi abbiamo anche il compito di dimostrare chi vogliamo essere, ha aggiunto, perché sono tempi straordinari ed è in gioco la tenuta del vecchio continente. Dobbiamo essere pronti a dare contributi più alti al bilancio europeo e agire in fretta, ha sottolineato. Molto in fretta a giudicare dai dati. Oggi nuovo tonfo dell'indice PMI che monitora l'andamento dell'attività manifatturiera e dei servizi nell'eurozona. Ad aprile nuovo minimo storico di 13,5 punti da 29,7 di marzo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo, dicevamo, al lavoro per la prima messa a punto del DEF con i numeri sul maggiore indebitamento causato dalle manovre a sostegno dell'economia. Il debito, dicevamo, potrebbe raggiungere il 155% del PIL. C'è attesa per il Consiglio dei Ministri, che dovrà esaminare il documento di economia e finanza e la relazione sullo scostamento di bilancio. Ipotizzato per oggi alle 12, il Consiglio potrebbe slittare al pomeriggio dopo un probabile incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione dei partiti della maggioranza. La riunione servirebbe a fare il punto su tabelle e numeri del DEF, che dovrebbe stimare un calo del PIL intorno all'8%, un deficit tra l'8 e il 10% e un debito fino al 155%. Sul tavolo c'è anche la relazione sullo scostamento di bilancio. I numeri in questo caso oscillano tra 50 e 55 miliardi, risorse che il governo intende mettere in campo con il nuovo decreto aprile per aiutare lavoratori, imprese, famiglie, sanità e protezione civile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prende forma intanto la strategia per la fase 2, sarebbero quasi 3 milioni i cittadini che torneranno ai loro lavori, dalla manifattura alle costruzioni fino al commercio, prima i negozi al dettaglio e poi, a quanto si apprende fino a questo momento, dopo la metà di maggio anche i bar e i ristoranti. Libertà di movimento per i cittadini, ma dentro i confini regionali. A partire dal 4 maggio la fase 2 vedrà tornare al lavoro quasi 3 milioni di italiani e ci sarà anche un allentamento delle misure sugli spostamenti, ma tutto dipenderà dall'andamento della curva dei contagi. Non sarà un libera tutti, si procederà con cautela e gradualità, ha fatto sapere il Premier Conte, che domani tornerà a confrontarsi con gli enti locali, le parti sociali e il Comitato Tecnico Scientifico. Il piano nazionale per la ripartenza verrà annunciato sabato. Manufatturiero e costruttore costruzioni dovrebbero essere i primi settori a riprendere le attività, per i negozi si parla invece della metà di maggio, mentre a giugno potrebbe essere la volta di bar e ristoranti. Con la fine del lockdown dovrebbero essere consentiti gli spostamenti anche fuori dal comune di residenza, ma non fra una regione e l'altra, si va anche verso un via libera alle passeggiate, alle visite ai parenti e alle attività sportive all'aperto, anche lontano da casa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Comincia a prendere forma il piano sui trasporti pubblici, uno dei capitoli più complessi per la fase 2, quando si stima torneranno a lavorare almeno 2.700.000 persone. Dispenser con igienizzanti, sanificazione frequente, prezzi dei biglietti differenziati per fascia oraria in modo da evitare assembramenti, percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dai mezzi, ma anche sistemi di telecamere intelligenti per monitorare i flussi e per segnalare il livello di saturazione e ancora apposizione di segni su autobus e metro per indicare i posti dove non ci si potrà più sedere in modo da garantire il distanziamento. Per treni e bus si andrebbe verso l'eliminazione dei biglietti cartacei sostituiti da quelli elettronici. Per i passeggeri dei voli aerei l'obbligo di tenere guanti e mascherina per tutta la durata del volo e misurazione della temperatura corporea alla partenza e alla discesa dal velivolo. Per i taxi il divieto di sedersi accanto al conducente, che dovrà utilizzare dispositivi di protezione, con la possibilità di trasportare nei sedili posteriori al massimo due persone munite di mascherina, altrimenti il passeggero potrà essere solo uno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito dei trasporti, questo momento, ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, potrebbe essere una opportunità per Alitalia. Patuanelli ha illustrato oggi la cosiddetta NewCo pubblica, che inizierà, dovrebbe debuttare a giugno. Sentiamo. Tutte le compagnie ovviamente aeree mondiali sono in grandissima difficoltà, e mentre prima Alitalia si confrontava da vaso di cristallo in un mercato dove gli altri vasi erano di acciaio, oggi questa situazione non è più così. Riteniamo che nel momento in cui il mercato aereo, quindi il trasporto aereo, potrà ripartire, partirà alla pari con tutte le altre competitor. Sempre per quanto riguarda le conseguenze economiche del coronavirus, si è parlato della necessità per l'agricoltura di una regolarizzazione dei braccianti agricoli stranieri. C'è un'altra categoria in bilico, si tratta di colf e badanti, altrettanto importanti per le famiglie italiane, ma quelle regolari sono attualmente senza ammortizzatori sociali, mentre quelle in nero non possono lavorare adesso. Sentiamo. 200 euro al mese è l'ammontare che viene ipotizzato come ammortizzatore sociale per le badanti e le colf, finora tra i lavoratori per i quali non era previsto nessun ammortizzatore sociale. Ora il governo prevede di inserire nel decreto di aprile anche uno strumento di sostegno al reddito a favore di queste addetti del comparto domestico. Una cifra assolutamente insufficiente, secondo Assindat Colf. A conti fatti, avrebbe più vantaggi un lavoratore in nero con il reddito di emergenza, tra i 400 e gli 800 euro, che uno in regola con gli ammortizzatori sociali. Inoltre, le associazioni di categoria calcolano che su 2 milioni di badanti straniere presenti in Italia, ben 1.200.000 sono in nero, la maggioranza donne e straniere. Il 60% in questo periodo, per paura dei controlli, non presta più servizio e quindi non ha più reddito. Dal 2012 non c'è una regolarizzazione che coinvolga non soltanto i braccianti agricoli, ma neppure le colf e le badanti, senza le quali molte famiglie italiane non saprebbero come fare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto a livello globale quasi 1.800.000 sono i casi attualmente attivi di coronavirus. Sentiamo allora come sta andando l'epidemia nei vari paesi. 840.000 contagiati e 46.000 morti. Negli Stati Uniti i numeri continuano vertiginosamente a crescere, mentre in Spagna e Francia si registra finalmente un rallentamento, anche se entrambi i paesi superano ormai 21.000 morti. La curva continua a salire anche in Gran Bretagna, più di 18.000 vittime e 134.000 contagiati. nel registro mondiale tenuto dalla Johns Hopkins, alle spalle del Regno Unito c'è la Turchia. 98.000 casi confermati ed in aumento. Da ieri è in vigore un coprifuoco totale che proseguirà fino a domenica. Finora infatti le chiusure erano state parziali e mirate ad anziani e ragazzi. In Asia, la Corea del Sud ha registrato solo 8 nuovi casi di contagio, mentre in Giappone altri 14 membri della nave da crociera italiana Costa Atlantica sono risultati positivi al virus. In totale sono quindi 48 sui 623 che compongono l'equipaggio. L'imbarcazione è ferma per manutenzione a Nagasaki. Tutti devono restare a bordo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E quasi tutti i paesi europei stanno comunque pensando alla loro fase 2 con inizi già programmati per il mese di maggio, ma la libertà di spostamento, quella sì, resterà fortemente limitata, contribuendo a tenere basse le aspettative di ripresa di un settore particolare come quello del turismo, che in Europa conta 27 milioni di occupati. Sentiamo. Il turismo sarà uno dei settori più colpiti dagli effetti della pandemia e quello su cui grava ancora una profonda incertezza rispetto alla possibile ripartenza. Per questo la sua ricostruzione deve essere in cima alla lista delle priorità. Serve con urgenza un vero e proprio piano Marshall in tutta Europa, dove il turismo rappresenta l'11% del PIL e il 12% dell'occupazione. Sul fronte interno si chiamerà Viaggio in Italia, la campagna che il governo lancerà in vista della prossima estate. Come ha spiegato il Premier Conte, si tratta di un piano di misure che verranno inserite nel decreto di aprile. Tra quelle allo studio, un bonus vacanze per dare liquidità e sostegno alle imprese e aiutare le famiglie italiane che hanno un reddito medio-basso ad andare in vacanza. Tra le tante criticità del settore turistico, la riapertura di bar e ristoranti. L'allarme di Fipe e Confcommercio è che molti non riapriranno perché le misure di sostegno per il comparto sono ancora gravemente insufficienti. Il direttore generale Roberto Calugi. Facciamo controlli ex post, se qualcuno viene beccato con infiltrazioni malavitosi prendetelo, buttatelo in carcere e buttate la chiave, ma non si può, per rischiare di fare degli errori, condannare un'intera categoria a una crisi di dignità di questo genere. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo dalla attesa per il Consiglio Europeo di oggi, annunciato per le 15, la Commissione ha, come avete sentito, fatto la sua proposta, un fondo per la ripresa da oltre 300 miliardi di euro, ancora tutto da capire però come sarà costruito, e intanto la cancelliera Angela Merkel che dice è in gioco il futuro dell'Europa, vedremo il suo paese, la Germania, vero ago della bilancia, come si schiererà oggi pomeriggio. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. 300 miliardi per il Recovery Fund è la proposta della Commissione in vista del Consiglio Europeo di oggi alle 15. Per Angela Merkel è in gioco il futuro dell'Europa. La fase 2, quasi 3 milioni di persone tornano al lavoro, sì a negozi, poi riapriranno bar e ristoranti, cittadini liberi di muoversi ma entro le regioni. Il presidente del CONI Malagò contro il calcio, tutti gli sport hanno già preso decisioni sofferte, manca solo il pallone. San Marino è lo stato con il più alto numero di contagi in rapporto alla piccola popolazione. Nella fase 2 riaprono anche le scuole. Ne parliamo tra poco. Tra poco, quindi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, vi racconteremo il caso di San Marino, il piccolo stato con un po' più di 30.000 abitanti all'interno dell'Italia, ma che ha attraversato anche lui la sua fase di crisi da coronavirus. Adesso si appresta alla fase 2 con alcune piccole differenze rispetto alla strategia adottata, almeno annunciata, dall'Italia. E poi, come anticipato nel sommario, andremo con il corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, Beda Romano, per l'attesa del Consiglio europeo di questo pomeriggio. Intanto, spazio al commento di Daniele Biacchessi su questo 25 aprile, tra due giorni, dopodomani, che si annuncia il primo da 75 anni a questa parte in cui saremo tutti chiusi in casa. Ad uno se ne stanno andando i partigiani che 75 anni fa avevano combattuto contro la dittatura fascista e l'occupazione nazista. Muoiono in silenzio, senza funerali pubblici, senza bandiere, come tutti gli altri anziani, nei mesi della più grande emergenza sanitaria dei tempi moderni. Ci lasciano così senza troppe celebrazioni, come persone normali, umili e semplici, protagonisti della grande stagione delle scelte, e lasciano un vuoto che è impossibile colmare. E con loro svanisce la generazione che ha visto gli orrori della guerra e che ha compiuto il grande miracolo della ricostruzione. Quello che si celebra dopodomani è il 75esimo anniversario della liberazione, il primo senza grandi cortei. Il ricordo della resistenza si trasferisce sui balconi delle case e nelle tante dirette virtuali. Eppure, nonostante l'emergenza, non sono mancate anche quest'anno le polemiche. L'ultima, poi rientrata, riguarda una circolare antiassembramenti inviata ai prefetti dal sottosegretario Fraccaro, che aveva scatenato l'ira dell'ANPI. Le storie dell'Italia partigiana sono quelle che hanno permesso a noi di parlare e a voi di ascoltare, senza che nessuna milizia ci possa arrestare, censurare, uccidere, deportare. Quelle voci lontane, come scrisse Piero Calamandrei, le possiamo ancora riascoltare tutte le volte che leggiamo la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza. Dimenticarlo sarebbe far morire quella generazione due volte. Ecco noi Andrea Belluzzi, segretario di Stato all'Istruzione e alla Cultura della Repubblica di San Marino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi, Belluzzi. Allora, San Marino, lo dicevamo poco fa nel sommario, con i suoi 33.000 e poco più abitanti e con i suoi 462 casi di contagio, questi sono i dati credo di due giorni fa, adesso saranno sicuramente aggiornati, ha avuto un'incidenza dell'1,4%, quindi statisticamente sembra la più alta per quanto riguarda uno Stato, diciamo, sì, il rapporto alla popolazione. E avete avuto anche 40 vittime, con un tasso anche in questo caso di mortalità abbastanza tra i più alti, insomma, giusto? Purtroppo il rapporto alla popolazione, il numero delle vittime e dei contagiati è il più alto. C'è da precisare, sì, però, e questo numero di contagiati crescerà perché oggi l'attività che sta svolgendo il nostro istituto di sicurezza sociale, che è la nostra sanità pubblica, è un lavoro di screening che va a essere molto capillare. L'obiettivo è quello di arrivare a fare uno screening completo su tutta la popolazione. Senta, come avete affrontato la fase 1, diciamolo così, chiamiamola così, perché poi parleremo anche della vostra fase 2, dove anche voi state cercando di immaginare con regole che naturalmente riguardano la Repubblica di San Marino, che non può essere considerata avulsa dal resto d'Italia, dal resto del territorio che vi circonda, ma che dal vostro punto di vista ha ovviamente necessità di una normativa e di una, come dire, di adottare misure peculiari per la vostra realtà. La fase 1 com'è andata? La fase 1 è stata difficile, abbiamo noi una nostra protezione civile interna, abbiamo istituito un comitato per le emergenze in cui partecipava appunto la nostra protezione civile e la struttura sanitaria. un gruppo che si è subito tenuto in stretta relazione e dialogo con la Protezione Civile Nazionale Italiana, e perché la nostra Protezione Civile Interna ha sempre tenuto questo canale aperto storicamente, e con la protezione, col gruppo di lavoro della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Abbiamo sempre lavorato in stretto contatto, allineando tutte le nostre attività, prescrizioni di ordine pubblico a quelli che erano gli standard che ha adottato l'Emilia-Romagna, tenendoci sempre in stretto contatto con la provincia di Rimini, col sindaco di Rimini e col presidente della provincia di Rimini. Quindi un lavoro di forte coordinamento. Il nostro primo paziente, tra l'altro, è stato proprio ricoverato nell'ospedale di Rimini ed è l'unico paziente sammarinese che ha avuto cure nella Repubblica Italiana. Senta, anche nelle statistiche di San Marino per quanto riguarda il contagio, i bambini sono stati poco coinvolti, poco contagiati complessivamente. Che numeri in ospedale avete? Mi risulta, se non sbaglio, un solo bambino che è stato ricoverato ma senza situazioni gravi. Poi ovviamente le positività in quarantena domestica riguardano anche la popolazione infantile, certo. E senta, invece per quanto riguarda la notizia da cui in qualche modo siamo partiti, è quella che nella fase 2 voi state pensando di riaprire le scuole. Ora, io non so quante scuole ci siano, elementari, medie, dei licei a San Marino, che tipo di valutazione state facendo sul fatto che i ragazzi possano tornare a scuola, considerato che avete appunto un comunque elevato numero di contagi sul vostro territorio. Perché state facendo questo tipo di valutazione? La ringrazio di questa domanda, perché su questo argomento è partito, veramente si è scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che noi, ma credo come i dipartimenti istruzione anche italiani o regionali, non stiamo con le mani in mano, stiamo valutando, studiando possibili modelli di ripresa, se non applicabili subito, applicabili anche in autunno, in funzione dell'evoluzione del contagio. Quindi stiamo studiando possibilità da valutare, cercando di capire quali sono i punti deboli e i punti di rischio per una ripresa della scuola che garantisca la sicurezza per i ragazzi e per il corpo docente e non docente. Su questo poi non so per quale ragione è uscita sui media addirittura nazionali italiani la notizia che San Marino sta pensando di riaprire, addirittura lo davano quasi per certo, di riaprire le scuole. Questa è una eventualità che stiamo valutando, ma per una fase 2 o fase 3, ma è un possibile scenario. Quindi, non diciamo, è quello, scusi, più probabile. Per capirci, perché evidentemente poi può darsi, sì, che qualcuno abbia capito male o abbia, diciamo, in qualche modo giornalisticamente fatto gola il fatto, mi scusi l'espressione un po' volgare, ma insomma, che una decisione a San Marino potesse arrivare diversa da quello che invece sembra maturare nel governo italiano, quando invece in altri paesi europei la stessa decisione sembra già presa, in Francia, in Germania, per quanto riguarda, parlo della riapertura delle scuole. Lei, diciamo, che previsioni fa? A questo punto glielo chiedo personalmente. Immagina che sia giugno, maggio, giugno, o sarà più settembre? Allora, noi avevamo già stabilito un prolungamento per quanto tecnicamente possibile, sperando di rientrare, quando abbiamo affrontato la prima fase dell'emergenza, una ripresa del calendario scolastico, per una conclusione del calendario scolastico a fine giugno. Quindi guadagnando un paio di settimane per cercare di recuperare tempo. Un'ipotesi di ripresa, ma solo a livello di ipotesi, la stiamo valutando per la metà di maggio, per fare un mese a scuola, ma è un'ipotesi che comunque, nel caso anche fosse, sì, valutata percorribile, è una ripresa parziale, non con tutta la popolazione. Da dove scolastica ricomincereste? Da quale parte della popolazione scolastica? Questa fa parte degli scenari che stiamo studiando. Non c'è ancora una strategia precisa, cioè, no, se partire dai più, diciamo, piccoli o dai più grandi? La cosa più probabile è ripartire da quella fascia di popolazione che deve dare l'esame di Stato, quindi l'ultimo anno delle scuole medie e l'ultimo anno delle scuole superiori. Perfetto. Però è doveroso fare una premessa. Che scusi se faccio questo inciso, come sta valutando di fare anche la Germania, se ho capito bene, cominciando dai più grandi e da chi deve fare l'esame di Stato. Ma noi siamo, come l'ha detto lei, un enclave all'interno di un territorio col quale stiamo lavorando in maniera coordinata, abbiamo sempre condiviso il lavoro. Assolutamente, tutto. E staremo quindi, a vedere. E quindi lo condivideremo con la ogni opzione che decideremo, la dobbiamo comunque condividerla anche con il territorio che ci circonda. Va bene, va bene. E questa opzione è ancora solo allo studio, non è che è un'opzione che si sta concretizzando. Assolutamente, quindi, no, ma non si deve difendere, non è che si deve difendere, semplicemente così volevamo capire a che punto siete su questa valutazione, perché comunque il tempo passa, le notizie avevano cominciato a uscire, a filtrare. Abbiamo capito, io la ringrazio, Andrea Belluzzi, del segretario di Stato per l'istruzione della Repubblica di San Marino, che non c'è ancora una decisione per quanto riguarda San Marino, ma stanno valutando, stanno maturando, è possibile, hanno un orientamento più positivo per quanto riguarda la riapertura delle scuole già a maggio, forse le ultime due settimane a disposizione per quanto riguarda giugno, a differenza di quanto invece sta maturando il governo italiano. Su tutto questo, e concludo, se vogliamo partire anche con la base, vi annuncio che domani Radio 24 si occuperà proprio di scuola, tutto il giorno, con un Radio Day in cui cercheremo di capire se la scuola sta, come dire, è trascurata, sta diventando un po' la Cenerentola tra tutte le attività di cui si sta occupando il governo, oppure se ci sono motivi giusti, fondati, per rimandare il dibattito in autunno, insomma, interrogativi, cercare anche di dare delle risposte per quanto riguarda il mondo della scuola, domani su Radio 24 con il Radio Day. Adesso saluto e ringrazio, lo ringrazio per essere con noi, Emanuele Nannini di Emergency, buongiorno. Salve, buongiorno. Vice direttore del Field Operation Department, all'inglese perché comunque la vostra ONG è internazionale, che si sta occupando e che è qui con noi per raccontarci di che cosa si sta occupando Emergency per quanto riguarda il contrasto dell'epidemia di coronavirus nel nostro paese. Voi da quando, Nannini, siete operativi e dove? Siamo operativi sul territorio italiano dallo scoppio, diciamo, dell'emergenza. La nostra sede principale si trova a Milano, perciò ci siamo trovati abbastanza travolti dagli avvenimenti, insomma, relativi ai casi di contagio in Lombardia. Dall'inizio abbiamo subito iniziato a lavorare con il Comune di Milano su due fronti, quello dell'accoglienza, perciò supportando le strutture di accoglienza per immigrati e senza fissa dimora, il Comune di Milano per dargli un supporto, per aiutarli a minimizzare i rischi del contagio all'interno delle strutture e poi trovare modi di compartimentare queste strutture per fare in modo che eventuali casi sospetti positivi venissero isolati. Ci si è accorti subito, da quando le persone sono rimaste chiuse in casa, che fuori rimanevano gli senza fissa dimora, gli immigrati, perciò abbiamo subito cercato di aiutare queste persone, che la frase stare a casa non aveva molto senso. Ed è importante, ed è anche il motivo per cui vi abbiamo invitate, Nannini, è proprio anche sottolineare questo aspetto. È stato detto che dopo una prima fase di contrasto al coronavirus, tutto concentrato, confinato all'interno degli ospedali, perché probabilmente era giusto così, c'erano le persone malate che arrivavano con gravi sintomi, bisogno di sostegno per quanto riguarda gli aspetti respiratori, lo sappiamo benissimo, però poi è stato detto dagli esperti: guardate che l'epidemia sta sul territorio, sta nelle case, sta anche fuori dalle case, sta dove stanno le persone che possono ammalarsi, e quindi c'è anche tutto un mondo, un aspetto che riguarda i servizi socio-assistenziali, quello che riescono a fare nell'ordinario e quello che in qualche modo voi state contribuendo a fare in questa fase straordinaria. Qual è il contributo che Emergency ha potuto portare per il contrasto di una malattia come questa, il Covid, che viene da un virus e che ha stravolto completamente tutti i criteri sanitari organizzativi che c'erano fino ad oggi? Noi abbiamo cercato di far passare un po' il messaggio del siamo tutti positivi o siamo tutti potenzialmente positivi, perciò le strutture con cui abbiamo lavorato, abbiamo cercato di fargli capire e far cambiare un po' il metodo del ragionamento per far capire che prima di tutto gli individui devono considerare se stessi appunto potenzialmente positivi e tutelare le persone che li circondano. Quello è il primo atto, diciamo, di responsabilità che le persone devono prendersi per fare in modo di tutelare tutti gli altri. E poi il concetto della comportamentazione, cioè separare qualsiasi tipo di struttura in cui si è fatta accoglienza, ma anche le strutture ospedaliere, per fare in modo che le varie categorie di persone, di pazienti, vengano trattate in base al livello di potenziale rischio che portano. L'altro contributo che poi abbiamo iniziato a dare esattamente dal 7 aprile è quello del nostro intervento presso l'ospedale da campo a Bergamo, dove mi trovo adesso. Esatto, e questo è un altro punto importante, no Nannini, perché mi porta alla prossima domanda che le volevo fare, che è questa. Visto che oltre all'assistenza su strada a Milano avete dato un contributo anche all'ospedale da campo allestito in fiera a Bergamo, che gestisce una terapia intensiva con uno staff di 34 operatori, se siamo ben informati, e le voglio chiedere come ha visto cambiare anche l'epidemia, il tipo di pazienti che arrivavano, il controllo sanitario che si è riusciti a effettuare, la risposta dei medici, perché la speranza, suffragata anche da un po' dalla cronaca, è che in questi due mesi si sia imparata a conoscere la malattia, si è migliorato la capacità di contrastarla dal punto di vista dei medici. Voi che tipo di visuale, che tipo di punto di vista su questo siete in grado di darci oggi? Intanto siamo stati contenti nel vedere che le misure di contenimento hanno dato i loro effetti, nel senso che anche qui nel territorio bergamasco l'afflusso dei pazienti presso le strutture ospedaliere è drasticamente diminuito. Questo ovviamente grazie al fatto che le persone sono rimaste a casa e hanno seguito le indicazioni delle istituzioni. Quello che l'ospedale è riuscito a fare sia prendere dei pazienti dal territorio, sia svuotare un po' le varie strutture ospedaliere qui nella zona. Sono, come già riferito da tanti medici, sono spesso pazienti molto, molto brutti, molto complicati, che hanno bisogno di stare in ospedale per tanto tempo. Avere un po' rilasciato la pressione sul territorio ha fatto in modo che le istituzioni potessero iniziare a seguire meglio i pazienti già dalle prime segnalazioni dei sintomi a casa, mentre durante il picco dell'epidemia il sistema è andato abbastanza in tilt perché appunto le chiamate di aiuto erano eccessive. Adesso sicuramente il territorio riesce a dare una risposta più veloce alle persone che chiamano. Questo fa sì che i pazienti che arrivano in ospedale siano leggermente meno gravi rispetto a quello che succedeva quando c'era il picco dell'epidemia. Ecco, è quello che il grande dubbio è cosa succederà quando appunto tutte queste misure di contenimento ovviamente dovranno essere pian piano ammorbidite, si entrerà nella fase 2. È comunque una malattia nuova su cui la scienza e la medicina ha imparato tanto, ma ancora non si può cantare vittoria. Grazie Emanuele Nannini di Emergency, grazie anche per questo messaggio comunque positivo, avete sentito dal racconto anche attraverso l'ospedale da campo in fiera dove Emergency è presente a Bergamo, il racconto di come si sia migliorata la capacità dei medici di controllare, contrastare il virus, e quindi questo poi è, come dire, la premessa necessaria per poter affrontare con un minimo di serenità questa fase 2. 13:34, torniamo tra poco, 349-238-6666, vi racconteremo l'attesa per il Consiglio europeo di oggi. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. 300 miliardi per il Recovery Fund è la proposta della Commissione in vista del Consiglio europeo di oggi alle 15. Per Angela Merkel è in gioco il futuro dell'Europa. Fase 2, quasi 3 milioni di persone tornano al lavoro, sì ai negozi, poi riapriranno bar e ristoranti, cittadini liberi di muoversi entro le regioni. All'Italia il ministro Patuanelli annuncia via alla nuova società, a giugno sarà pubblica e avrà oltre 90 aerei. Il presidente del CONI Malagò contro il calcio, tutti gli sport hanno già preso decisioni sofferte, manca solo il pallone. 13:38, buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori in diretta con Effetto Giorno, un po' in ritardo sui tempi normali, allora diamo subito la parola al punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. La fase 2, quella della riapertura che tutti auspichiamo, non sarà esattamente la fine dell'incubo coronavirus. Dovremo abituarci a ulteriori colpi di coda sull'economia in un paese che già ora rischia di aver ridotto 10 milioni di cittadini in povertà. Se le produzioni ripartiranno a regimi ridotti, se i treni viaggeranno con una poltrona occupata su tre, e lo stesso dicasi per aerei o bus o metropolitane, se i ristoranti dovranno ridurre i tavoli dal 30 al 50%, e lo stesso dovranno fare gli alberghi, crolleranno i margini di remunerazione di quelle attività. Significa che serviranno meno persone e che quindi aumenterà la disoccupazione. Significa che per alcuni esercizi sarà meglio restare chiusi piuttosto che aprire in perdita pesante. Ma soprattutto, questa situazione non potrà non avere un effetto di rincaro di prezzi o di tariffe. Un aumento dei listini nel momento in cui nel paese cresce la fascia dei disperati, con un'inevitabile esplosione delle diseguaglianze. Un aumento dei prezzi che potrebbe portare a inflazione. Può anche essere un bene, ma se in chiave europea porterà l'indice del costo della vita intorno al 2%, per la BCE sarà un vincolo che potrebbe portare anche a interrompere il flusso della liquidità. Un altro bel paradosso nel momento in cui tutta l'Europa ha bisogno dello scudo degli acquisti di titoli di Stato di Madame Lagarde. E allora, restiamo nel contesto europeo, perché come detto oggi c'è il Consiglio europeo annunciato per le 15, si andrà sicuramente per le lunghe, è con noi Beda Romano, corrispondente da Bruxelles, Sole 24 Ore, ciao Beda. Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Allora, la Commissione europea, abbiamo detto nella prima parte di Effetto Giorno, ha fatto questa proposta alla vigilia del Consiglio europeo, ha specificato quella che era la proposta già sul campo, 300 miliardi di euro per questo Recovery Fund, che si baserebbe su un articolo dei trattati, quindi diciamo senza bisogno di riforme, un piano di investimenti, insomma, adesso vedremo, ce ne parlerai, cercheremo di capire se questa poi la proposta che potrebbe uscire al Consiglio europeo. Altrettanto importante, forse di più, le dichiarazioni della Merkel di oggi, che ha detto è in gioco il futuro dell'Europa, però poi ha anche detto per il debito comune sostanzialmente serve una riforma dei trattati. Cosa ci dicono, Beda, queste dichiarazioni della Merkel, la vigilia di questo Consiglio europeo? La Germania è pronta per una condivisione degli impegni oppure prevarrà una linea di rimando in ossequio, insomma, ha un bisogno dell'opinione pubblica tedesca di essere rassicurata, nel senso che ben conosciamo, Beda? Sì, credo che le parole della signora Merkel in realtà siano molto importanti, ribadiscono un sentiero che è stato percorso nelle ultime 2 o 3 settimane da parte della Germania. La Germania ha fatto capire in varie circostanze di essere pronta ad aiutare l'Europa a dimostrarsi in questa circostanza più integrata di quanto non lo sia stata, per esempio, 10 anni fa in occasione della crisi finanziaria provocata dal fallimento di Lehman Brothers. E oggi al Bundestag, poche ore prima del vertice di questo pomeriggio, ha spiegato ai deputati e in particolare ai suoi connazionali che la Germania è pronta ad aumentare il suo contributo al bilancio comunitario. Allora, sappiamo che il bilancio comunitario sarà lo strumento che verrà utilizzato dai 27 per rilanciare l'economia europea, sappiamo che all'interno del bilancio ci sarà un fondo per la ripresa. La signora Merkel ha spiegato che la Germania farà la sua parte per far sì che questo bilancio e questo fondo abbiano gli strumenti finanziari sufficienti per finanziare il rilancio economico. È particolarmente interessante perché solo due mesi fa, in febbraio, ben prima naturalmente dello scoppio della pandemia influenzale da coronavirus, la Germania aveva cominciato le trattative in vista del prossimo bilancio comunitario, quello che parte dal 2021 fino al 2027, dicendo di non volere aumentare il suo contributo nazionale. Ecco, mi sembra che ci sia un cambio notevole da parte della Germania su questo punto. Ecco, entrando poi in quelli che potrebbero essere i dettagli di questi piani, insomma, di investimenti, 300 miliardi annunciati oggi dalla Commissione europea, che potrebbero scattare senza bisogno di riforme dei trattati, eccetera, eccetera. Però si è detto, avranno bisogno comunque di approvazione, tempi lunghi, potrebbe addirittura essere attivato questo piano nel 2021. È una previsione realistica e questo soddisfarebbe, secondo te, gli equilibri europei dei paesi, chiamiamoli i mediterranei, l'Italia, la Spagna, la Francia, che chiedono un sostegno comune subito ai paesi in difficoltà? Cercherò di rispondere con una premessa. La premessa è che la Commissione oggi non ha detto nulla per quanto riguarda il piano da 300 miliardi. Queste sono fughe di notizie che si ripetono da un paio di giorni, sì, e che la Commissione cerca di smentire per quanto possibile, ma senza grande successo. Io ho l'impressione che la Commissione stia lavorando naturalmente a un piano, stia lavorando a un fondo. Non ne conosciamo, la realtà è che non ne conosciamo ancora i dettagli, in parte perché la Commissione sta aspettando di capire come si svilupperà il dibattito politico tra i 27 quest'oggi. Mi sembra di poter dire che il dibattito politico dovrebbe portare a un mandato alla Commissione, perché presenti tra la fine di aprile e l'inizio di maggio le modalità tecniche di questo fondo di rilancio, e mi sembra anche di poter dire che l'obiettivo sarà di permettere alla Commissione di prendere a prestito sui mercati finanziari attraverso un particolare articolo dei trattati denaro che potrebbe arrivare fino ai 1.500 miliardi di euro. Ecco, questo mi sembra che sia quello che si può dire in questo momento, però ne capiremo di più questa sera e naturalmente certo, ne capiremo di più nelle prossime settimane quando la Commissione effettivamente presenterà un piano. Grazie mille Beda, ciao Beda Romano, buona giornata. A presto, arrivederci. Da Bruxelles, quindi poi avete capito, insomma, ci sono notizie, fughe di notizie, ci sarà un consiglio, un lungo consiglio europeo, si annuncia, vedremo, e poi anche lì ci sarà da leggere nelle dichiarazioni, perché al di là di tutto un equilibrio tra i paesi del nord, i cosiddetti frugali, i paesi, insomma, l'Italia, la Francia e la Spagna, che hanno spinto per soluzioni diverse, sarà ognuno, insomma, dovrà portare, come dire, piantare la sua bandiera e cercare di far capire alle proprie opinioni pubbliche, ai propri paesi, di non aver perso questa battaglia. Ma, insomma, staremo a vedere, ancora questione di poche ore. Piccola pausa, torniamo tra un attimo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.